Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note un po' classiche, un po' barocche del Rip Roussel, di Fairy Queen, iniziamo l'incontro di questa sera con Andrea Gavosto. Buonasera Gavosto. Buonasera a voi. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, ci spiegherà tra poco The Fairy Queen, come mai Purcell, come mai questa passione per la musica classica, ma dobbiamo innanzitutto salutarvi da Trento, dal Festival dell'Economia che è giunto al suo giro di boa, ha superato i primi 3 giorni, un Festival dell'Economia dedicato quest'anno alla mobilità sociale, cioè alla possibilità delle persone, dei gruppi sociali di crescere in una società che ormai da troppi anni parla di crisi, parla di difficoltà, parla di disuguaglianze. Proprio il tema di come affrontare le disuguaglianze è stato alla base di questi primi giorni, sarà alla base anche dei dibattiti e degli interventi dei prossimi giorni qui a Trento al Festival dell'Economia. E uno dei protagonisti dei dibattiti di oggi, domenica 31 maggio, è stato proprio Andrea Gavosto, che ha parlato sul sistema educativo italiano. La Fondazione Agnelli ha una lunga tradizione di interesse verso il sistema educativo, il sistema formativo, ma di questo appunto parleremo con Andrea Gavosto. Ma con lui cominciamo a dire: perché Purcell? Perché questa musica barocca? La musica barocca, devo dire, mi affascina. Probabilmente appunto questa struttura ripetitiva con leggere variazione la trovo molto rilassante. Poi io ho vissuto abbastanza lungo in Inghilterra e Purcell, diciamo, è molto noto. È un noto, mito, sì. Questi, prima dei Beatles c'era lui. Sicuramente. Ecco, allora parliamo di educazione, parliamo di questo Festival dell'Economia. Beh, innanzitutto parliamo della Fondazione Agnelli, è una fondazione che ha quasi 50 anni. Quasi 50 anni. Il prossimo anno, verso la fine del prossimo anno, faremo i 50 anni e si è, diciamo, statutariamente sempre dedicata al progresso economico e sociale del paese, dell'Italia, attraverso studi e ricerche. Noi siamo una fondazione, un istituto di ricerca sostanzialmente. Ultimamente, da poco meno di una decina d'anni, abbiamo deciso che per assolvere appunto questo mandato dovevamo concentrarci sul tema dell'istruzione, quindi scuola, certo, università, formazione. Ecco, forse non ce n'è bisogno, ma come dice il nome, è una fondazione che è nata in ricordo del fondatore della, esatto, Fiat a Torino, però ha appunto una visione non solo nazionale ma internazionale. Oggi lei ha parlato formalmente aperto, sostanzialmente chiuso: il sistema educativo italiano e la mobilità sociale. Ecco, quando si parla di mobilità sociale, cioè di possibilità di crescere, di muoversi, di far valere le proprie competenze, il sistema educativo è in primo piano perché è quello che dà le opportunità per la crescita personale. Com'è messa l'Italia? Ma l'Italia è messa appunto formalmente aperta, sostanzialmente molto meno, nel senso che, come ricordava giustamente, in tutti i sistemi economici, anche quelli diciamo più rivolti al mercato, l'istruzione è il grande fattore di mobilità sociale, quindi diciamo è al centro un po' del dibattito di questi giorni. E peraltro la nostra stessa Costituzione, quando, certo, recita che i capaci, i meritevoli hanno diritto ad ascendere, diciamo, ai più alti gradi della società, lo prevede. Di fatto, perché non appunto il nostro è un sistema assolutamente aperto, nel senso che noi abbiamo un'istruzione di fatto gratuita fino alla scuola superiore, diciamo l'università non è totalmente gratuita, però insomma rispetto alle università del sistema anglosassone è meno più economica, decisamente, decisamente più economica. Permette, diciamo, appunto di non preclude, come succede per esempio nel sistema tedesco, dove già a 12 anni bisogna di fatto scegliere il canale o il liceale oppure l'istruzione professionale. La nostra sostanzialmente permette passaggi incrociati a tutti i livelli, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche di un sistema. Questo aperto. In teoria, in pratica un po' meno. In pratica decisamente meno. In pratica la cosa che è anche emersa nel dibattito di oggi, ci sono alcuni snodi del nostro sistema che non funzionano. Uno è sicuramente la scuola media. La scuola media è nata appunto negli anni 60 con un obiettivo importante, era, come dire, un paese che, come dire, si stava alfabetizzando in un certo senso, comunque stava uscendo da un diffuso analfabetismo, la scuola media aveva all'epoca il compito di garantire a tutta la popolazione italiana, diciamo, uno standard minimo di conoscenze. Infatti, quindi la scuola media unica. La scuola media unificata, esattamente. E poi è diventata una prosecuzione delle elementari. In ma è diventata una cosa strana, in realtà non è neanche una prosecuzione delle elementari, è una, come dire, né carne né pesce. Infatti il suo problema è esattamente quello, perché per fortuna l'obbligo scolastico ha superato, diciamo, i 14 anni, quindi la coincidenza con la terza media, e invece non assolve a quello che dovrebbe essere oggi il suo compito principale, che è di orientare poi i ragazzi e le ragazze per le scelte successive. E qui cominciano i problemi, perché la media non fa bene questo orientamento, della media si cominciano a come dire, annidare le prime differenze legate alla retroterra sociale della famiglia di provenienza, e poi che differenze che esplodono nel momento delle scelte dell'indirizzo del superiore. Però vengono rimandate sempre di più, perché anche le scelte definitive si fanno forse dopo le superiori a questo punto. Beh, in realtà, vedendolo apparentemente, ma nella sostanza, le scelte definitive invece si fanno proprio in quel momento, nel senso che si sa che un ragazzo e una ragazza che abbia imboccato, diciamo, il percorso liceale al 95%, poi proseguirà all'università, eccetera. Sì, ma intendevo come forma di università, avendo aperto anche tutte le università, tutti i diplomi, uno può cambiare, fare il liceo classico e poi fare una facoltà scientifica. Questo è sicuramente vero, però qui stiamo sempre parlando di coloro che hanno, come dire, intrapreso l'indirizzo liceale. Il vero problema è che soprattutto chi va all'istruzione, alla formazione professionale, all'università non ci arriva. Che è diciamo, il grande spreco di intelligenza e di risorse che ecco, c'è un problema di abbandoni scolastici che è molto forte, di cui forse si parla poco. Si parla poco, sta per fortuna un po' calando, lì ci sono un po' di questioni statistiche, appunto abbiamo anche accennato oggi, però sta sicuramente calando, però là, di nuovo il problema è che l'abbandono, cioè il non completamento, diciamo, della scuola superiore è molto concentrato per esempio appunto nel segmento dell'istruzione e formazione professionale. Quindi e alle superiori, diciamo dopo le medie, che abbiamo questa chiara stratificazione per cui i figli laureati vanno al liceo, i figli di famiglie diciamo meno benestanti tipicamente vanno all'istruzione. Ecco, introduciamo un giudizio rapido e poi magari sviluppiamo nella seconda parte questa riforma di cui si parla, che è già stata in parte approvata da un ramo del Parlamento. Cambia qualcosa? Da quel punto di vista non cambia, perché è un tema, diciamo, non ha ripensato la struttura della nostra scuola, gli ordini, le medie, quello andava forse ripensato maggiormente. Quindi è una riforma, diciamo, a metà, in un certo senso, che resta un po' in bilico. È una riforma che tocca alcuni aspetti, ma non ridisegna il nostro sistema scolastico, e forse in quello è un'occasione persa. Ecco, guardando un po' all'insieme di questo Festival dell'Economia, ai temi dell'educazione, è giusto aver messo un punto l'educazione al centro, non solo nel suo dibattito di oggi, ma anche in altri dibattiti dell'educazione, un po' al centro della problematica della mobilità sociale. Qual è anche il giudizio di fondo sulla mobilità sociale in un paese come l'Italia? E dopo, diciamo, la stagione d'oro del secondo dopoguerra ci siamo fermati da tutti i punti di vista. E quindi dobbiamo rimetterci un po' in pista, dobbiamo rimetterci un po'. Ecco, e questo forse è importante anche che una iniziativa, appunto, come il Festival dell'Economia, ricordiamo anche il Festival dell'Economia ha un anniversario, compie quest'anno i suoi 10 anni, ha fatto un cammino, è cresciuto in un certo senso anche nell'interesse delle persone, è cresciuto anche nella capacità di porre in primo piano i temi di fondo della realtà, anche con ospiti illustri come alcuni premi Nobel come Piketty, che è stato nei giorni scorsi al centro dell'interesse con le sue ricerche sulle disuguaglianze, come Stiglitz, come Krugman, che concluderà il festival. Ma noi concludiamo qui la prima parte del nostro incontro, restate con noi e con Andrea Gavosto, ci sentiamo tra pochi secondi. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta Incontri. We'll be right back. Pulse, The Fairy Queen. Riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Vi parliamo dagli studi di Radio 24 al Festival dell'Economia di Trento, festival che è arrivato alla sua terza giornata, ancora due giornate di fronte, un festival dedicato alla mobilità sociale in tutti i suoi aspetti, con un particolare risalto all'aspetto educativo, che è fondamentale per dare l'avvio appunto alla possibilità di una società di essere mobile, mobile in senso positivo, in senso di crescita, in senso di capacità di riconoscere appunto, peraltro come dice la Costituzione, ricordava Andrea Gavosto all'inizio del nostro dibattito, che i capaci e i meritevoli devono conseguire, poter conseguire i più alti livelli di studio, ma anche i più alti livelli della società. Invece la nostra società è ancora una società bloccata, una società molto ferma, una società in cui è difficile farsi avanti, in cui molto spesso quello che è detta la professione dei figli è la professione dei padri. Allora con Andrea Gavosto abbiamo parlato anche, ricordo direttore della Fondazione Agnelli, di questa riforma della scuola di cui si è parlato tanto in questo periodo, un giudizio, quello di Gavosto, abbastanza problematico, risolve in parte alcuni problemi ma ne lascia aperti molti. Allora torniamo su questa riforma della scuola, Andrea Gavosto, qual è il giudizio che sulla base anche dei dati empirici, delle ricerche, lei e la Fondazione Agnelli date? Il giudizio è variegato, ci sono aspetti decisamente positivi, il primo dei quali è che si torna a investire nella scuola, 3 miliardi comunque sono una cifra ragguardevole. A me personalmente, a noi della Fondazione, anche sulla base dei nostri studi, l'idea di dare maggiore responsabilità al preside nella scelta dei docenti non dispiace, sinceramente. Ci sembra insomma, un adeguamento anche all'esigenza della scuola, una scuola autonoma, di poter scegliere le persone che, come dire, realizzano il piano della scuola, quindi questo ha un senso. Un pochino più problematico invece l'aspetto della maxi piano di assunzioni, 100.000 precari sì, che verranno scelti nell'ambito di queste graduatorie cosiddette ad esaurimento, graduatorie provinciali. Perché problematico? Perché avendo appunto esaminato con una certa attenzione chi sono gli iscritti a queste graduatorie, sappiamo che una fetta importante di questi non insegna regolarmente, cioè non fanno supplenze annuali, perlomeno non le fanno nella scuola statale, e soprattutto direi c'è un problema che noi abbiamo battezzato con un termine anglosassone di mismatch, cioè che non combaciano le esigenze delle scuole con le caratteristiche delle persone che sono dentro queste graduatorie, quindi inevitabilmente le scuole dovranno continuare a rivolgersi al di fuori, diciamo, di queste graduatorie, continuando a pescare dei precari. Quindi rischiamo neanche di risolvere il problema del quindi precariato. Quindi risolviamo in parte, ma decreiamo degli altri. Ecco, ma questo non può essere una soluzione, dare questo maggior potere ai presidi, proprio della scelta del personale insegnante anche? Beh, però non è tecnicamente una chiamata diretta quella che prevede la legge, cioè non è come potrebbe avvenire, diciamo, in qualunque organizzazione per cui il preside assume lui o lei, visto che ormai più della metà sono donne, signore, sì, sono signore, i docenti. Lo deve fare, può scegliere sempre nell'ambito... All'interno delle graduatorie. Sì, di persone che hanno superato, diciamo, un concorso, sono entrate. Ecco, quindi restano alcuni aspetti problematici, ma diciamo che comunque complessivamente è un passo in avanti questa riforma, è qualcosa che tocca alcuni punti critici del sistema scolastico. È un passo in avanti appunto su alcuni aspetti, secondo me è un po' un'occasione perduta però, perché doveva essere un po' il momento di ripensare le cose di cui discutevamo prima, anche quali sono le competenze che ai diversi livelli scolastici vanno sviluppate, come riorganizziamo i cicli scolastici. Il nostro impianto rimane quello della primaria, della cosiddetta scuola media, oggi secondaria di primo grado, e poi le scuole superiori. Come sostanzialmente risolviamo o riduciamo questo problema di cui abbiamo discusso appunto oggi, della cosiddetta canalizzazione, per cui chi viene da un certo tipo di famiglia farà inevitabilmente il liceo, chi viene da un altro tipo di famiglia farà l'istruzione professionale. Questo era il momento di affrontare questi temi. Ecco, la riforma peraltro introduce un po' meglio il tema del rapporto scuola-lavoro, sì, dell'alternanza scuola-lavoro. Questo è un punto... Questo è molto positivo, devo dire. Questo è uno dei maggiori meriti, direi, della riforma. Si aumentano le ore di... lavoro nell'ambito curriculare, diciamo, certo. Sì, esattamente. E questo anche per i licei. E questo anche per i licei, che è una cosa importante, si è ormai capito, e devo dire abbiamo sperimentato anche noi stessi della Fondazione in alcuni casi, che come peraltro avviene in molti paesi, mischiare in un certo senso saperi teorici e saperi pratici ha due grandi benefici. Intanto permette agli studenti di capire meglio quali sono le loro inclinazioni anche in vista delle scelte future universitarie e lavorative, e poi sostanzialmente li motiva di più. Se io, diciamo, anziché fargli studiare come succede per esempio nei nostri licei lettere, italiano, latino, insieme greco. A questo resta lo studio dell'italiano, del latino, del greco per i licei classici, ma mettiamoci. Insieme si vede qual è la realtà, insomma, com'è la realtà. Ecco, sotto questo profilo, parlando di aziende, si fa spesso un riferimento alla scuola, deve essere un'azienda, forse no, un po' eccessivo. No, la scuola non è un'azienda, no, la scuola non sarà mai... Il preside non è un capo azienda, esatto, non è un manager. Non sarà mai un'azienda, è chiaro che, guardi, alcuni sistemi, diciamo, ci sono più o meno nel mondo due grandi modelli di scuola. C'è il modello prevalentemente anglosassone, che è un pochino più aziendalistico, quindi la scuola viene gestita con obiettivi, con risultati, il preside viene anche valutato sulla base di quello, è un po' l'indirizzo in cui vorrebbe andare la riforma. Però onestamente il sistema che funziona meglio è quello scandinavo. In quello scandinavo l'idea è diversa, l'idea è che dentro la scuola ci sia una comunità di persone, come dire, una vera comunità educante, cioè persone particolarmente selezionate, particolarmente motivate, che si controllano anche fra di loro. A quel punto, diciamo, il ruolo di cane da guardia del preside viene meno. Se noi mettiamo, come una redazione di giornale, grandi giornalisti tutti insieme, ci saranno ovviamente magari cose che non funzionano, però in generale, come dire, il clima è costruttivo e collaborativo. Quando si è più di uno, qualche motivo di dissenso c'è sempre. D'accordo. E, ecco, ma in questa prospettiva la scuola appunto ha bisogno anche di rinnovarsi. Uno dei temi della scuola, mi pare che è stato anche oggetto di una delle vostre analisi negli ultimi anni, è stato quella dell'integrazione dei nuovi italiani, possiamo chiamarli così. Assolutamente, cioè così. C'è un flusso di persone, di immigrati, di figli di immigrati che sono nati magari in Italia, ma che comunque costituiscono una realtà antropologicamente diversa, con tutto il rispetto, ovviamente senza nessuna classificazione particolare, perché però costituiscono anche un problema che la scuola deve in qualche modo assumersi e deve affrontare. Beh, la scuola sta affrontando, devo dire, sta facendo grandi cose per l'integrazione, diciamo, dei ragazzi stranieri, però il problema è che sta cambiando in un certo senso dimensione. Noi stessi, appunto, come ricordavo, ci siamo occupati di aiutare i ragazzi stranieri che arrivano in Italia dopo, diciamo, durante il periodo scolastico, e quindi soprattutto con difficoltà magari legate alle lingue, eccetera. Però ormai la scuola, e i numeri sono impressionanti, tenga conto che ogni anno entrano nella nostra scuola poco più di 400.000 ragazze e ragazzi, di cui 100.000 sono stranieri, quindi ormai soprattutto al nord una grandissima percentuale di ragazzi, diciamo, della leva scolastica, per così dire, fatta da ragazzi stranieri. Ormai siamo le seconde generazioni sono totalmente scolarizzate in Italia, hanno le stesse aspettative dei loro coetanei italiani, però poi nella vita hanno questi tipi di difficoltà, magari scelte sbagliate da un punto di vista scolastico, invece di andare a fare il liceo scientifico, le famiglie li hanno costretti a fare le scuole professionali, e quindi perdita di insomma, spreco di talento in un certo senso. Ecco, in questa prospettiva il problema della mobilità sociale riemerge completamente, ancora più apertamente. Ecco, ci avviamo un po' verso la conclusione, dando un po' una prospettiva. Da queste lei ha seguito anche qualche altro intervento all'interno di questo Festival dell'Economia, che impressione ne ha ricavato come giudizio complessivo sulla mobilità sociale? Già mettere a fuoco un problema e già fare un passo avanti per risolverlo, però il cammino è molto lungo. È molto lungo ed è, come diceva ieri Tony Atkins, uno dei più grandi economisti, bisogna anche che la politica esca dalla sua comfort zone, cioè esca dal dibattito, diciamo, normale, per affrontare il tema della mobilità sociale, cosa che oggi in nessun paese, non parlo in particolare dell'Italia, ma in nessun paese sembra riuscire ad affrontare efficacemente. Ecco, un tema della mobilità sociale che è molto legato con quello delle disuguaglianze. Anche in questa prospettiva l'impressione è che questa crisi abbia accentuato le disuguaglianze e abbia un po' complicato la possibile soluzione dei problemi, non certo la soluzione definitiva, ma un avvio di soluzione dei problemi. Sì, io lo credo, nel senso, lo credo fortemente, cioè alla fine la miglior cura anche per le disuguaglianze sociali è la crescita. Quando l'economia si sviluppa, pensiamo anche ai paesi emergenti, eccetera, eccetera, è più facile, come dire, compensare le disuguaglianze sociali. Quando l'economia non cresce, come è stato il nostro caso, o addirittura retrocede, diciamo, come negli ultimi cinque certo. anni, risolvere il problema di disuguaglianza sociale è terribilmente difficile. Quindi cominciare a crescere, ma insieme alla crescita dare anche una spinta alla possibilità, all'apertura della società a un maggior confronto, a una maggior valorizzazione dei meriti, esatto. delle capacità professionali. Concludiamo, Fondazione Agnelli compie l'anno prossimo 50 anni. I primi 50 anni. avete in programma qualche particolare manifestazione? Beh, stiamo studiando, ovviamente non ci interessa fare un'autocelebrazione del nostro cammino. Quello che vorremmo fare è riflettere su cosa sarà questo paese, questo continente fra 50 anni, come lo ritroveremo fra 50 anni. E quindi una visione verso il futuro, anche perché il futuro è quello che possiamo costruire adesso. Esattamente. Grazie mille, grazie ad Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, di essere stato con noi questa sera. Vi ricordo, stiamo parlando da Trento, dal Festival dell'Economia, che è giunto al suo giro di boa, un Festival dell'Economia che si concluderà martedì 2 giugno con un incontro di Tito Boeri, che è il direttore scientifico del Festival dell'Economia, pro tempore anche presidente dell'INPS, con Daniel Gross e Paul Krugman, che sono due grandi economisti europeo e americano. Sul punto esiste davvero una contrapposizione tra efficienza ed equità. Questo sarà l'ultimo incontro martedì 2 giugno alle 16 al Teatro Sociale a Trento, un Festival dell'Economia che ha tantissimi incontri, non è possibile ricordarlo tutti. Chi può capitare a Trento nei prossimi due giorni sicuramente troverà qualcosa di interessante da seguire. Intanto grazie di aver seguito questo programma. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie anche a Filippo Reggi in regia. Appuntamento con incontri è per domenica prossima. L'appuntamento col Festival dell'Economia è per l'anno prossimo.